Via, via, rabbia nera, via, via, rabbia scura, chiudi gli occhi, batti i piedi, sai perché? Rabbia nera più non c'è. Soddisfatto e divertito, una torre ho costruito, arrivi tu a naso in su, la mia torre butti giù. Io mi arrabbio così tanto, non so dirti neanche quanto, e divento blu dalla testa in giù, stringo i denti e faccio il muso. Via, via, rabbia nera, via, via, rabbia scura, chiudi gli occhi, batti i piedi, sai perché? Rabbia nera più non c'è. Se correndo perdi fiato, un bel gioco conquistato, arrivi tu a naso in giù e il mio gioco non c'è più. Io mi arrabbio così tanto, non so dirti neanche quanto, e divento blu dalla testa in giù, stringo i denti e faccio il muso. Via, via, rabbia nera, via, via, rabbia scura, chiudi gli occhi, batti i piedi, sai perché? Rabbia nera più non c'è.